strada con una pugnalata. Giallo nel Torinese, la famiglia aveva problemi sul lavoro. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Prima dell'economia e dell'emergenza sicurezza a Roma, avete sentito, torniamo a parlare del blitz dell'Agenzia delle Entrate a Cortina. Ci dobbiamo aspettare ulteriori attività di questo genere, così Luigi Magistro, direttore accertamento dell'Agenzia delle Entrate, commenta quanto accaduto. Lo ha fatto al microfono della nostra Valentina Furlanetto. Noi non partiamo mai con l'intenzione di sollevare alcun polverone, noi abbiamo una strategia che si muove costantemente per la ricerca delle situazioni di evasione nei vari comparti, ne abbiamo fatti molti altri interventi di questo genere. Ci dobbiamo aspettare operazioni simili quest'estate, non so, nella Costa Smeralda? Al di là di singole località ci dobbiamo aspettare ulteriori attività di questo genere, ma non ci sarà bisogno di aspettare quest'estate, la stagione invernale è ancora lunga, quindi ce li possiamo aspettare anche in altre località di turismo tipicamente invernale. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a diversi attacchi contro sedi di Equitalia, c'è un nesso fra questi attacchi e l'operazione a Cortina? No, guardi, qui il problema non è di andare incontro all'opinione pubblica con operazioni magari volutamente messe in campo per questo motivo. Non si tratta di punire qualcuno, no, si tratta di fare in modo che una massa consistente, ancora renitente agli obblighi fiscali, si convinca che le cose sono profondamente cambiate. Intanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede la par condicio da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ci auguriamo, ha detto, che per coerenza blitz così importanti come quelli di Cortina siano replicati anche al sud. E noi andiamo a Roma, dove nel pomeriggio ci sarà un vertice per la sicurezza dopo l'ultimo omicidio di una lunga serie avvenuto ieri sera, in cui è stata uccisa anche una bimba di 9 mesi. Andrea Viali. Sì, buongiorno. Si susseguono in queste ore a Roma i vertici fra rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine per dare una risposta a questo nuovo fatto di sangue e soprattutto individuarne i responsabili. Sono stati anche organizzati subito posti di blocco straordinari e controlli a tappeto finora. Però le ricerche sono senza esito. Il duplice omicidio di Torpignattara arriva, lo ricordiamo, al termine di un anno nel quale sono state 33 le persone morte in agguati e sparatorie nella capitale. Ma sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto ieri sera nel servizio di Katia Caramelli. Italiani con uno spiccato accento romano. A tracciare un primo identikit dei killer che le hanno sterminato la famiglia è stata lì a 27 anni l'unica sopravvissuta alla rapina di Roma. La donna, che è ricoverata in ospedale, ha ricostruito l'accaduto. I malviventi probabilmente conoscevano le abitudini di suo marito, Zhu Zeng, che gestiva un locale nel quartiere popolare di Torpignattara. Sapevano che rientrava a casa tutte le sere intorno alle 22 con moglie e figlia di appena 9 mesi e così lo hanno aspettato sotto il portone, uno armato di bastone, l'altro di pistola. Hanno cercato di strappare la borsa alla donna con l'incasso della giornata. Quando il marito, che aveva in braccio la piccola, ha cercato di reagire, gli hanno sparato a bruciapelo. Un proiettile ha raggiunto anche la bambina, che è morta poco dopo il padre. La madre invece è rimasta ferita. I due hanno preso la borsa con i soldi e sono scappati a bordo di uno scooter. Non si esclude che possano essere dei pregiudicati con precedenti per rapina. Nel pomeriggio è convocata anche una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, alle quale parteciperà il Ministro dell'Interno Cancellieri. Non sarà presente invece il Sindaco di Roma, Alemanno, che sta rientrando in città da un viaggio in Argentina. Al suo posto ci sarà il Vice Sindaco, Sveva Belviso, che stamattina ha espresso naturalmente la sua solidarietà alla comunità cinese, ma ha anche chiesto allo Stato una risposta decisa e immediata per garantire la sicurezza nella capitale. Come prevedibile, intanto, sono subito scoppiate anche nuove polemiche politiche. La situazione è sempre più grave, occorrono interventi urgenti, dice oggi il Partito Democratico. che torna ad accusare Alemanno di non aver mantenuto le sue promesse sulla sicurezza. Per ora da Roma è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Una storia non ben chiara anche quanto accaduto nel torinese. Un 43enne si è tolto la vita infilandosi un coltello nello stomaco a Vinovo. Poco prima aveva causato un incidente stradale, ma le due persone coinvolte non erano ferite in gravi condizioni. Ora i familiari dell'uomo raccontano che aveva problemi col lavoro. E parliamo di lavoro, perché mentre il governo pensa alle riforme, record la disoccupazione. Quasi uno su tre. L'Istat mette il bollo su una situazione visibile a occhio nudo. Il 30% dei giovani tra i 15 e i 24 anni è senza lavoro. Quasi un punto in più rispetto a ottobre e quasi due punti in più rispetto al novembre di un anno fa. Da quando l'istituto ha cominciato le rilevazioni non si era mai visto un dato così alto. Semplificando, se i padri restano al lavoro, i figli non riescono ad accedere al mercato. Se si guarda al dato generale, le cose non vanno meglio. Più 8,6% a novembre, uno 0,1 in più rispetto a ottobre. Solo un decimo di punto, si potrebbe dire, se non fosse che tra quei 15.000 disoccupati che vanno a ingrossare la schiera degli oltre 2 milioni che cercano lavoro non trovandolo, sono quasi tutte donne. Numeri in crescita anche per la disoccupazione calcolata nel trimestre, aumentata tra luglio e settembre. A catalizzare l'attenzione è il fatto che a crescere è soprattutto la disoccupazione di lunga durata, che dura cioè da oltre 12 mesi, superata ampiamente la soglia del 50%. La magra consolazione è che nello stesso trimestre sono cresciuti i dipendenti a termine, la maggior parte dei quali sono under 34. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Premier Monti inizierà intanto domani da Parigi il suo tour europeo, l'11 vedrà poi Angela Merkel. Non si fanno in due le riforme, l'Italia è credibile, ha detto Monti al francese Le Figaro, e questa mattina è intervenuto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla stessa linea. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, torna a parlare del futuro del nostro paese il capo dello Stato, della possibilità che l'Italia ha di uscire dalla difficile congiuntura economica. Monti spiega il presidente della Repubblica Napolitano a tutti i titoli per poter porre all'Unione Europea questioni che riguardano il modo di garantire rigore e crescita in Europa. Inoltre, dice ancora Napolitano, il decreto approvato dal Parlamento è la prova concreta di come l'Italia sia, anche dal punto di vista del debito pubblico, affidabile. Quindi un riferimento al nuovo clima tra le forze politiche rispetto alla fase precedente, dice il capo dello Stato, c'è meno rassegnazione all'impossibilità di concordare riforme, più apertura e contatti in corso che spero approdino a risultati in materia di riforme istituzionali. Chiaro il riferimento del Quirinale anche alla riforma del mercato del lavoro. Ieri vi è stato un primo incontro tra il ministro del welfare Fornero e il segretario della CGIL Camusso. La prossima settimana gli incontri entreranno nel vivo con tutte le parti sociali. Il governo garantisce una riforma in tempi brevi. La Camusso replica: siamo disponibili ad un'intesa, ma l'articolo 18 non si tocca. A gettare acqua sul fuoco delle polemiche il Premier Monti, che fa sapere non vi è alcun interesse ad assecondare o coltivare divisioni tra i sindacati. E da Roma è tutto. Grazie. Per l'Europa si aggrava intanto anche la questione Ungheria. Il fiorino va a picco, i tassi del debito sono oltre il 10%. Sul disastro economico pesano le scelte autoritarie dell'esecutivo, che hanno indotto le istituzioni internazionali a sospendere il negoziato per il piano di salvataggio. Notizia ben abbattuta dalle agenzie: il gruppo Rotelli migliora la sua offerta per il San Raffaele, mette sul piatto ora 405 milioni di euro. La scorsa settimana il gruppo di San Donato aveva offerto 300 milioni. La distanza tra Torino e Detroit sempre più breve. Fiat ha incrementato questa mattina la sua partecipazione in Chrysler del 5%, salendo al 58,5%. Un passo, ha dichiarato l'amministratore delegato Sergio Marchionne, fondamentale verso il completamento dell'integrazione tra i nostri due gruppi. Unica notizia poi economica positiva della giornata, per la verità, perché in borsa non è proprio quel che si dice una buona giornata. Deborah Rosciani. Sì, effettivamente la notizia su Chrysler rende Fiat l'unico titolo positivo in questo momento a Milano. Il Lingotto guadagna un punto percentuale, i titoli SPA guadagnano un punto percentuale, perché gli altri titoli della galassia sono invece in negativo. Exor meno 1,56 e Fiat Industrial in calo ancora più marcato, sta perdendo in questo momento il 3,86%, ma ancora una volta protagonista di questa seduta sono i titoli bancari, tutti a picco a Milano. Non troviamo un altro termine per definire l'andamento di questi, appunto, di queste società. Unicredit ancora una volta la grande protagonista negativa della seduta, meno 11,99%, quindi meno 12% per i titoli di Piazza Cordusio dopo il meno 15% segnato ieri. E questa la reazione del mercato rispetto alle condizioni dell'aumento di capitale che sono state comunicate ieri dal consiglio di amministrazione del gruppo. Aumento di capitale al quale abbiamo dedicato ascoltato tutta la puntata di Salvadanaio che partirà lunedì prossimo. L'andamento di Unicredit condiziona un po' l'andamento di tutto il comparto bancario europeo, d'altronde la più grande banca italiana, molto esposta appunto anche in Europa, e trascina a ribasso tutti i titoli del settore a Milano, di conseguenza condizionando l'intero listino, perché è largamente composto da titoli bancari. Il FTSE MIB perde il 3,25% e perde molto di più rispetto alle altre piazze europee. Parigi in ribasso di un punto, Francoforte meno 0,8%, Londra meno 0,8%. Su Parigi pesa anche l'andamento dell'asta dei titoli di Stato, il GOAT, che c'è stata questa mattina. Per la verità è andata molto bene, però in realtà forse il mercato si aspettava qualcosa di più rispetto alle richieste da parte del mercato. Anche la questione ungherese si fa sentire, l'euro sul dollaro scivola 1,2836. È tutto, Anna. Grazie Deborah Losciani, c'è un aggiornamento dall'estero, sarebbero almeno 30 pellegrini secondo fonti ufficiali le vittime oggi di un'esplosione di una bomba piazzata sul ciglio della strada nel sud dell'Iraq, almeno 70 i feriti. Noi voltiamo pagina, dopo le polemiche cambia lo spot di Trenitalia. La prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca porte, odore di mare morto. Nel nuovo Frecciarossa le classi sono ormai 4, standard, premium, business ed executive. Uno spot studiato per lanciare il nuovo treno ad alta velocità che assicura wifi per tutti e la possibilità nella classe più alta di avere a disposizione addirittura una sala conferenze in viaggio. Ma non tutto fila liscio e Trenitalia incappa in una gaffe non da poco. Nella classe standard, vale a dire la più bassa, appare una famiglia di immigrati che si gode il viaggio più economico. Tuonano associazioni di consumatori e di genitori. La DOC, Associazione per la Difesa e Orientamento dei Consumatori, accusa Trenitalia di pubblicità offensiva e indecorosa. La famiglia di immigrati è testimonial in vagoni discriminati da altri come la terza classe del Titanic. Continua il MOIGE, il Movimento Italiano Genitori. Pessimo messaggio per la percezione che possono averne i minori. Pessimo gusto, un tentativo di relegare gli immigrati dentro confini ristretti. Ne nasce un caso mentre la protesta è in furia sul web. A Trenitalia non tocca che fare marcia indietro e la famiglia di immigrati viene sostituita di colpo da una coppietta di giovani che, da che mondo è mondo si sa, non navigano nell'oro, specialmente in tempi di crisi e con la disoccupazione giovanile alle stelle. Per le ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore Roma. Meraviglie della tecnologia in mostra tra qualche giorno a Las Vegas e gli operatori del settore si preparano all'appuntamento più importante dell'anno. Martedì inizierà a Las Vegas il Consumer Electronics Show, ormai l'unica grande fiera dove le aziende presentano vere novità e anteprime. Smartphone, computer, portatili ultra sottili con nuovi processori, tablet, ma soprattutto e storicamente nuovi televisori. Le prime indiscrezioni mettono in cima alla lista dei trend le TV connesse ad internet che possono utilizzare, senza decoder, contenuti on demand prelevati dalla rete. Ma è almeno 2 anni che vediamo prodotti di questo tipo e ora si tratta solo di renderli veramente facili e per tutti. Giapponesi e coreani faranno vedere 2 novità. Display di grandi dimensioni con la nuova tecnologia OLED, da non confondere con il LED. LG ha ad esempio annunciato uno schermo da 55 pollici, 5 mm di spessore, che potrebbe arrivare nei negozi entro l'anno ad un prezzo, dicono i coreani, non impossibile. Finora i piccoli schermi con questa tecnologia hanno invece prezzi decine di volte superiori ai normali TV. Ci saranno anche i primi prototipi in super alta definizione QHD, 4 volte il Full HD. Samsung, ad esempio, metterà in mostra un monitor per PC da 27 pollici con risoluzione 2560x1440 pixel. Appuntamento alla prossima settimana. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore. In regia Pietro Lacorte, da Anna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.